È un gran bello riff che gli è costato caro quando il manager dei Rolling Stones ha fatto la causa, perché questo è stato un pezzo orchestrale fatto tratto dal pezzo di Rolling Stones Out of Time che i Verve avevano rubato senza il permesso. Comunque gran bel pezzo from Richard Ashcroft and the Boys, Bittersweet Symphony, per aprire nostra venerdì sera insieme on Radio Club 91 fino alle ore 23. My name is Fergal Kavanagh, on controls il nostro Gino Palumbo. Tutto bene Gino? Sì, sta sorridendo. Allora il nostro numero di SMS, ragazzi, segnatevi così non lo dimenticate mai: 335 537 9191. Allora, here's Britney Spears. Cambiamo un po' la musica, il genere. She's un po' sopraprotetta, or overprotected. You give me something, ecco, Jerry McQuay, ce la farò. You give me something, grande, grande, the best music on Radio Club 91 alle ore 21 e 21 minuti. E siamo arrivati al momento della richiesta. E guardiamo chi ci ha scritto al 335-537-9191. Allora, buonasera Alessia, tu volevi sentire un gran pezzo italiano. Questo perché in sottofondo, muovendo come il mare, hai indovinato? Sì, chiaramente, l'hai chiesto tu. Si intitola Onde and it's Alex Baroni. Eh sì, che cosa vuoi? Alternated I Don't Understand It on Radio Club 91. Allora ragazzi, una penserebbe che a New York avrebbero bisogno di tutte le cose, tutto il divertimento possibile, tutto il spettacolo per alzare il morale eccetera, però a febbraio hanno deciso di non lasciare il permesso, il municipio di New York City ha deciso di non lasciare il permesso ai russi che stavano facendo un cerco, un fine di inverno gala, un grande evento. E la parte più alto, cioè la parte più importante di questo evento, era una Stenko Nastenko, che sarebbe due squadre di 50 uomini che si mettono a pugilsi, a fare le pugili, ad ammazzarsi proprio. E allora il New York hanno detto no, è troppo violente, non si può fare. Però uno dei organizzatori ha risposto: ma noi avremo un'ambulanza lì vicino, e se perdiamo un dente, vabbè, perdiamo un dente, ma non è una grossa problema, ma sono pazzi. Lei sapeva. Vai Carlos Santana, vai vai vai, on your knees, con questo sound, questo bel sound. E poi c'è il ritmo, c'è il beat in sottofondo, il che ci fa muovere proprio. Ed è giusto che sia così, perché ragazzi siamo arrivati a venerdì, venerdì sera oggi. Allora vuol dire che abbiamo il weekend davanti a noi, siamo free. Allora ragazzi, è arrivata una richiesta al 335 537 9191, il nostro numero di SMS. E questo vieni da Giuseppe. Giuseppe dice a Paola: ma tu sei mio piccolo angelo, mi potresti mettere Angel di Lionel Richie? Allora per voi due, here he is. Avete fatto il test di guida ultimamente, ma questa storia viene da Winnipeg in America, un po' divertente. C'era un ragazzo di 15 anni che stava facendo sua lezione per imparare a guidare. Allora suo istruttore è un ex poliziotta, e mentre c'era la lezione questo poliziotta ha visto qualcuno che stava rubando la macchina. Allora che ha fatto? Ha fatto questo 15 anni, quindi ragazzo di 15 anni corre indietro alla macchina, è come se fosse un vero police chase, e finalmente sono riuscito a prenderlo. Ma questo veramente è un battismo al fuoco. E quindi non lo so se voi avete avuto esperienze del genere, magari non mentre stavate imparando a guidare, però magari quando guidavate qua in giro per questa città, per Napoli, che è un po' pazzorella in macchina. Magari me lo volete raccontare un po' al 335 537 9191. You are listening to Radio Club 91 ascoltiamo un po' di Sanremo, Sanremo adesso. Ecco, si può anche dire Sanrema, perché qua c'è un maschio e una femmina insieme, Fausto Liali a Luisa Corna, che dicono ora che ho bisogno di te. Cosa vuoi che... Ecco il New Age incontra David Bowie, il Young Rebel, Pat Metheny e David Bowie insieme su This Is Not America from the film The Falcon and the Snowman. Un bel ricordo questo venerdì sera per aprire il secondo ora insieme a Fergal Kavanagh and Gino Palombo. You ragazzi are listening to Radio Club 91, the best music ogni sera, ogni giorno, ogni weekend, ogni momento della vostra vita. E vi ricordo il nostro numero di SMS 335 537 9191. Potete anche richiedere vostra canzone preferita, però non richiedete Shakira perché sta arrivando proprio adesso e non la vorremmo mettere due volte, quindi godetelo adesso, io la godrò sicuramente. Magari non sapete, però Madonna deve vincere il premio Britta per la carriera, ma lei ha deciso no, ha detto non lo voglio accettare, perché questo premio, insomma, mi fa sembrare troppo vecchia. E invece, allora, quelli che l'hanno organizzato hanno deciso di dare il premio a Sting, che pure Sting è stato un po' preoccupato per questo fatto. Ha detto, guarda, questa cosa dovrebbe essere nominato per lo straordinario contributo alla musica. Ecco un po' di Madonna, ma Madonna non è vecchio, è vecchio e non è vecchio, non lo so. Comunque è sempre la bella musica dai giovani fa. Allora ragazzi, Radio Club 91, 335-537-9191, il nostro numero di SMS. E saluto Rossella dopo Zuoli. Rossella voleva sentire Gabriella, Gabrielle con Out of Reach, come ha proposto su Sanremo. Allora per te Rossella, buon ascolto. Neither side wasn't right. I was stupid for a while, swept away by you, and now I feel like a fool. So confused, my heart's bruised. Was I ever messaggio. Richiedi la sound carica per questo venerdì sera con il Silicon Soul. Right on, right on, right on. E continuiamo adesso con un pezzo da Felix the House Cat. E questo si intitola, faccio un po' la traduzione. Allora, la scena sotto la doccia, sullo schermo argento, cioè silver screen, shower scene. Speed seduction in a magazine, endless pleasure in limousine. Ah, venerdì sera ragazzi, il weekend è arrivato e questo weekend è un weekend molto particolare per tutti gli irlandesi perché è San Patrizio. Alright, happy St. Patrick's Day to everybody. E vi ricordo che essendo domenica 17 marzo la giornata di festeggiamento, noi saremo al Conoco Club di Via Nilo a festeggiare San Patrizio, quindi vestitevi in verde a raggiungerci per un drink e un po' di ottimo musica. Allora ragazzi, you are listening to Radio Club 91. Allora, sono arrivati molti messaggi sulla richiesta e io non so come accontentarvi, quindi abbiamo deciso la prossima persona che ci scriva, cioè il primo messaggio che arriva, sarà accontentato tra esattamente 5 minuti. Allora vi ricordo il numero, quindi scrivete adesso al 335 537 91 91, e il primo sarà accontentato. Fuori con cellulare pronto e siete veramente velocissimo a scrivere. Anche un altro messaggio arrivato in questo secondo, arrivato di Marida. Ciao Marida. Allora, adesso abbiamo già scelto quello che è stato il primo, però prima voglio salutare a tutti quanti altri. Allora, ciao Teresa, Gino, Enrico, grazie di averci detto che siamo amici. Tommy e Luigi salutano Sassà, Nicola e Ferdinando di Trentola 200, Enzo di Caserta, Laura, Gianni e poi un altro che non ha firmato e anche uno che voleva dedicare un pezzo ad Enrico. Allora, poi abbiamo deciso di darlo al primo, è stato un ottimo scelto, però continuate a scrivere al 335 537 91 91, e poi c'è Armando che arriva che vi può sempre accontentare. Ok, per Angela da Napoli, questo per te e Lady. Ciao Enrique Iglesias, you can run, you can hide, but you can't escape my love. Questo amore che io ho per gli ascoltatori di Radio Club 91, anche se non ci sarò questo weekend in onda, tornerò lunedì sera puntuale alle ore 20:21. Comunque, prima di andare, un altro paio di messaggi arrivati sulle 335 537 91 91. È pazzo stasera veramente. Allora, Marida, scusi che avevo pronunciato il tuo nome male prima, grazie del tuo messaggio. Poi anche grazie che mi hai scritto: hi Fergal, hello everybody, auguro un happy St. Patrick's Day, guardo la tua posta, magari trovi qualcosa, allora vado subito e poi ne parliamo lunedì magari. Poi ultimamente per Rocco, non lo so se Armando ti accontenterò o no, comunque auguri che domani compi 18 anni, ecco, per Rocco. Ok, è il momento di andare, buon weekend a tutti quanti, questo è Fergal Kavanagh, saying good night. Ringrazio a Gino Palombo on controls, e vi ricordo che domenica sera è San Patrizio, quindi happy St. Patrick's Day a tutti quanti e soprattutto agli irlandesi, e magari ci vediamo per una birretta quella sera. Ciao!